problema del parcheggio per i dipendenti è un problema vecchio come il cucco, tra virgolette, perché sono anni e anni ormai che i dipendenti si ritrovano a dover pagare il parcheggio esterno perché non trovano un parcheggio all'interno dell'ospedale. Eppure ci sono a disposizione tantissimi parcheggi per noi, per i dipendenti, però ultimamente, da quando ci sono i lavori che l'azienda ha messo in campo per ristrutturazioni di tutto il policlinico, sono diminuiti i parcheggi perché hanno dovuto sopprimere dei posti, come numeri circa una trentina adesso, ma diventeranno molto, molto di più nel futuro perché le ristrutturazioni saranno sempre in aumento e quindi ci sarà questo problema che diventerà sempre più grande. Noi come organizzazione sindacale abbiamo già fatto evidente all'azienda, tramite materiale, foto, abbiamo sentito i lavoratori, che la situazione è insostenibile. Hanno messo in campo alcune ottimizzazioni per loro funzionali, ma in questo momento servono a poco perché comunque il personale è sempre in continuo aumento, soprattutto per il fatto dell'emergenza Covid. Quindi il personale è aumentato, i parcheggi sono diminuiti, il problema diventa sempre più grande, si espande a macchia d'olio. E proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il Comune di Bologna, dove abbiamo evidenziato il problema, ma non solo dei parcheggi interni, anche quelli esterni, soprattutto quelli vicino all'Antoniano, in via Guinizelli, dove praticamente c'è anche una scarsa visibilità durante le ore notturne e mattutine. Ecco, un problema che con la mobilità anche delle lavoratrici e lavoratori proprio per l'emergenza Covid, quindi aumenta. Ci sono lavoratori che vanno in diverse strutture nell'arco della stessa giornata, quindi potenzialmente si devono pagare più parcheggi. Esatto, il personale che può essere chiamato sia in reperibilità o spostarsi da una parte all'altra deve necessariamente anche utilizzare l'automobile, perché comunque sappiamo benissimo che bisogna evitare gli assembramenti in questo periodo e quindi diventa sempre più difficile questa cosa. Durante la prima fase della pandemia, se non sbaglio, il comune aveva adottato una misura per non farvi pagare questi parcheggi, però non è più in vigore? Esatto, avevamo avuto una comunicazione da parte del comune che nelle zone limitrofi l'ospedale Sant'Orsola c'erano dei parcheggi a disposizione per i dipendenti con sosta gratuita. Effettivamente abbiamo richiesto ancora di poterne usufruire perché comunque è arrivata la seconda ondata, sta per arrivare anche la terza, quindi in virtù di questo abbiamo chiesto aiuto per i nostri dipendenti. Ci è stato risposto che in questo momento non è possibile riattivare la sosta gratuita. Che tipo di esborso comporta doversi pagare il parcheggio per andare a lavorare? Beh, intanto l'esborso può essere o per il parcheggio o, se necessariamente costretto a dover utilizzare i mezzi pubblici, quindi dover fare anche un abbonamento a un treno, a un autobus. Pagare un parcheggio perché non si trova all'interno dell'ospedale un posto per un dipendente, va a finire che il dipendente va a parcheggiare o sulle strisce blu, quindi la tariffa oraria che si utilizza per le strisce blu, oppure nei parcheggi multipiani da privati che sono nelle vicinanze. Quindi lascio immaginare quanto può essere l'esborso, può essere anche di una decina, 10-15 euro al giorno, può essere benissimo. Quindi voi cosa chiedete? Noi chiediamo innanzitutto una soluzione aggiuntiva, un aiuto per i dipendenti in maniera alternativa. Io ho fatto un esempio, c'è questo parcheggio multipiano, si può comunque fare una convenzione per pagare una minima cifra e avere comunque il parcheggio garantito, perché nel piano sottostante è totalmente vuoto, l'ho visto anche con i miei occhi. Parcheggi alternativi anche all'esterno, anzi chiederemo di nuovo di riavere le soste nelle strisce blu, nelle zone limitrofe, cioè queste sono le cose che abbiamo chiesto di mettere in campo, soprattutto in virtù del fatto che, come ho detto prima, i cantieri aumentano e i posti diminuiranno.